Paradosso spaziale. L'arte come non l'avete mai. Un programma di Fedra C. Boscaro e Stefano W. Pasquini. Okay. I don't want you in my life, just give me back mine. I think it's about time you. There is a room in your life for more pairs of shoes. It's all about you, so you're only in love with yourself, obsessed with how well you're coming across. Get lost. Now I can see I was just starting to match with the purse. I'm not your poodle. No, please. Why are you acting so cocky? You can meet like your chicks bounce like Dolly, 'cause I know tomorrow night at pillow talk time you call my phone sobbing and sounding all sorry. You were so silly acting all gobby, 'cause I just ain't another girl like E. Plus you ain't worth another girl like me. I can do way better than you, risk, don't worry. Now I'm pulling the chains, so it's flush out my veins, out the drain. Oh, sei tornata di nuovo, che fai qua? Sempre quella dell'altra volta, non so se ti ricordi. Come dimenticarti? Stefano? Stefano? Fedra? Ma che puntata è? La 328. 300? Pensavo foste andati più avanti, eh? Avete battuto la fiacca? Ne abbiamo potuta fare solo una alla settimana. Comunque Stefano, io sono un attimino in defiance. Cioè, veramente mi fai fare tutto il coxo da sola? Certo, io sono in Grecia. Tutta la 328esima puntata del coxo da sola? Assolutamente sì. Dopo tutto sto tempo che non coxo più. E perché non coxano più? È perché non ero più lì a coxare con voi. No vabbè, comunque il coxo si sa, è una cosa dell'anima che ti nasce dentro, ti lascia il suo semino e poi divampa e come un virus si espande. Si può dire di nuovo la parola virus adesso? Oppure... Non credo. Ok, scusate. Sono contentissima anche perché indovina un po' chi c'è? Ma Chiara Pergola? No, non c'è neanche lei. La Roberta Giallo. Dopo no. It's a real pain, just make up your mind. I made up my mind, you're wasting my time. You ain't got no right, you wait all the pie. Cause I know five guys who's waiting in line. So best share the slide and say your bye bye. Per aspera, cioè tutta per aspera 2020. Incredibile. E anche dall'Australia dove ti trovi. Sarai fiero di me. Ok. Lo dico ai miei amici canguri. Emozionatissima, sono qui, vi vedo sul mio schermo perché vorrei sbaciucchiarvi, toccarvi, ma sono tutte cose che dovremmo rimandare ad un altrove, ad un prossimamente che speriamo sia molto prossimo. Ecco qui Ennio e Maria, autopresentati. Cari. Ciao, ciao Fedra, grazie per questo invito, sempre bellissimo. Infatti. E allora, il tema principale della puntata è Per Aspera 2020, perché ritorna resiliente come non mai, e abbiamo qui appunto chi siete in stile coxico, presentate nome e generalità. Facciamo le presentazioni incrociate. Allora, qui c'è Ennio Ruffolo e Maria Donnoli. Le due povere pazze che organizzano il Festival di Arti Contemporanee Interdisciplinari per Aspera. 13ª edizione, con il titolo di... È un bel numero, porta fortuna. È il 13ª edizione, dici? Vedremo. Di quest'anno cos'è? Si chiama Imbattersi, il tema di quest'anno. E ci siamo imbattuti già da febbraio in qualcosa quest'anno. grande innominato, il grande innominato del Coxo, mi hanno detto, esatto. Lascia perdere. Esatto. No, ma noi onestamente cerchiamo di nominarlo il meno possibile, esatto, nel senso che faremo tutto quello che va fatto nel rispetto delle normative, però lavoriamo con l'idea appunto di lasciare le persone imbattersi nella sorpresa dell'arte che in questo momento, come non mai, è essenziale e necessaria. Quindi siamo ancora più motivati quest'anno perché andiamo in giro in luoghi i più disparati di Bologna e della città metropolitana per creare stupore, creare sorpresa e costruire bello insieme alle persone nei luoghi in cui le persone si trovano. Quindi ancora più motivati. Quindi lo spirito di Peraspera insiste, persiste, cresce e si diffonde nel mondo. Adesso a Bologna, Bologna metropolitana, poi sarà la regione Emilia-Romagna, poi sarà l'Italia, poi sarà la galassia! E mi ci ho scoperti! È veramente! Ma comunque, in realtà noi del COXO siamo arrivati un po' tardi, perché la sorpresa, cioè la verità è che il festival è già cominciato, dico bene? Sì, da qualche giorno già, sì, vero. È cominciato il 20. E finisce il? 27. E adesso dove siamo tutti quanti? E adesso siamo alle serre dei Giardini Margherita, c'è appena stata la performance per musicista, atleta e speech dispositor di Fabrizio Saiu. E adesso Fabrizio è con Renzo Francabandera e Michela Mastroianni immersi in questo percorso laboratoriale con il pubblico che si chiama Micromondi. E quindi loro sono nella Serra Sonora e noi un siamo pochino qui. Fuori. Fuori dalla Serra Sonora. Voi pure, perché tanto il COX è ubiquo. E comunque io ho una grandissima sorpresa per voi. In pieno stile coxico, insistendo sul dono dell'ubiquità, ci ascoltiamo proprio gli ideatori di Micromondi. Dai, bello! Introdotti da un'atmosfera sonora che ci porta dentro le corde del Peraspera, che ci è stata elargita da una presenza che anche lei si consolida negli anni. Vincenzo Scorza. Insieme a due super mega galattici ospiti e protagonisti di questa edizione 2020 di Peraspera. E si tratta niente poco di meno che di Renzo Francabandera e Michela Mastroianni, che hanno ideato questo format per questa edizione che si chiama Micromondi e che avrete modo di incontrare in questo preciso momento, perché sapete che il COXO è ubiquo, perciò loro sono qui che parlano con noi, ma in realtà sono anche alle serre dei Giardini Margherita in questo stesso istante. Se no, se non avete anche voi il dono dell'ubiquità, potrete incontrarli domani il 22 al Mercato Albani oppure il 24 a Calderara di Reno nella città metropolitana, e sempre alle 19.30. Comunque io adesso chiederei, come di consueto, ai nostri ospiti di linkare voce e nome partendo con l'autopresentazione. Perciò prego, un bel saluto agli ascoltatori del COXO da parte di Michela Mastroianni, ciao a tutti. E Renzo Francabandera, bentrovati. Siamo qui, ma siamo anche altrove, non dimenticatelo. Quindi... queste sono caratteristiche incontestabili di tutti gli ospiti coxici e ci sono già qui a dirvi che chi sale sul cox una volta, anche se in questa forma pseudo-virtuale, poi c'ha da tornare. Perciò non ve la scamperete con questi minuti, prima o poi tornerete. Bene, bene, siamo contenti. E quindi in attesa delle vostre future avventure siamo qui invece con Micromondi, che già il nome è tutto un programma. Di cosa si tratta? Si tratta di, lasciamelo dire che l'ho imparato di recente, audience development. L'ho detto bene? Diciamo... approssimativo, però ci siamo... No, sì, intanto noi proviamo a dialogare con l'arte, questo è il primo tema. E poi con chi è spettacolo quello che fate voi, giusto? Non ha, cioè non, voi non state no, no. È tutt'altra cosa, è qualcosa di più sottile. Non so se sia più sottile, sicuramente è una cosa un po' più cattiva dell'arte, perché noi mettiamo a confronto, o forse ancora di più, cerchiamo di far dialogare insieme persone che vogliono guardare, ascoltare, capire e anche, che ne so, provare a fare. Questo perché gli strumenti dell'arte contemporanea, ma soprattutto dell'arte dal vivo, della performing art, sono degli strumenti che in parte ci fanno dire ma questo avrei saputo farlo anch'io. Bene, quindi noi partiamo da questo banalissimo stimolo per dire fallo anche tu. E quindi questa edizione... in realtà, diciamo, siccome l'audience development, per come è stato inteso finora, era un po' una roba, diciamo così, pallosetta di critici che andavano, dicevano, facevano e un po' la contavano su, però alla fine ci sembrava che restasse, no, una barriera fra chi ascoltava ed era di qua. E continuava a rimanere di là, no? E quindi in una sorta di stabilizzazione delle posizioni che alla fine non spostava, diciamo, anche le curiosità del pubblico a muoversi verso la creazione dell'arte. Invece, secondo noi, l'arte nella sua declinazione nella società deve diventare un patrimonio del fare anche, non solo dell'ascoltare, del capire. E quindi dove le persone sono intenzionate anche non solo ad ascoltare, cosa che possono continuare a fare, cioè chi vuole restare di là e senza muoversi, ovviamente in micromondi potrà continuare a farlo, perché avrà agio di restare semplice spettatore. Però il nostro stimolo è quello di dire: va bene, se voi avete piacere, voglia, vi interesse a trovare nello stimolo creativo dello spettacolo qualcosa che spinga anche voi a trasformarlo in un'azione, in un fare, in un dare libertà alla vostra personalità, noi ci siamo. Io mi permetto di aggiungere una cosa, non sono molto molto amica dell'inglese, quindi ti accompagno nel cambiare definizioni, nell'alternarle ad altre possibili diciamo presentazioni nostre. Mi piace un po' definirci come degli accordatori di sentimenti e di sensibilità, quindi noi intercettiamo la nota su cui suona, la nota che spesso è intellettuale e molto alta, però vorrebbe essere anche sensibile e profonda, degli spettacoli che vengono proposti. Ecco, noi cerchiamo di intonare, di accordare questa nota alla nota che verrà fuori dai singoli partecipanti del nostro, chiamiamolo, incontro. Ma questa cosa è meravigliosa, io saluto Micromondi perché alla fine va proprio a mettere il dito nella piaga cronica che tutta la creatività contemporanea ha da che il contemporaneo è stato definito come genere, ovvero lo faccio io, ma che senso ha, ma dov'è l'arte? E invece va proprio ad insistere a quello che secondo me Gli coxonauti lo sanno perché di tanto in tanto lo tiro fuori un po' come il prezzemolo, è stato, diciamo, lo scempio maggiore dell'arte moderna, che ha sottratto in qualche modo il valore fattuale e pratico del fare arte, che è un qualcosa che deve essere vissuto, risuonare nei pensieri e trasmettersi, andare a cercare quell'oltre, quella nebulosità di pensiero che nel quotidiano alla fine resta sempre un po' di lato e non è mai di che scambiarlo e via dicendo, perché così ciascuno possa essere in contatto con la propria poetica, che ciascuno ce l'ha sta poetica, o no? C'era sì, e infatti portatecela, venite ora ai Giardini Margherita, alle Serre, noi ci siamo già, domani al Mercato Albani, fermatevi dopo aver fatto la spesa, perché noi arriviamo e lavoriamo con voi. Ma adesso voglio sapere, ditemi meglio, ma come funzionano questi vostri incontri? Arrivo e voi come ci accogliete? Come mi porti a portar fuori la mia poetica e ad accordarmi con le poetiche degli altri? Allora, Renzo è lo spirito veramente accogliente della situazione. Io sono un po' più provocatoria, perché Renzo è abituato a frequentare il mondo dell'arte da parecchi anni. Io sono più appassionata di digitalità, di poesia, e mi piace smascherare i trucchi, quindi diciamola così. Per cui da questo dialogo spesso ironico e molto molto spesso ricco anche di stimoli che vanno oltre quello che si è visto, quello che si è ascoltato, che cercano di tirare fuori da ciascuno il suo bagaglio di esperienze, di visioni personali, ecco, e noi cerchiamo di costruire insieme stimoli successivi di creatività. È un'esperienza in effetti nuova per noi di vivere la dimensione creativa poi così itinerante. Eravamo abituati a spazi che frequentavamo per un po' più di tempo, sarà un'avventura nuova anche per noi. Perché negli anni abbiamo provato a fare sia l'accompagnamento, diciamo, di audience development di tradizionale, con gli incontri con gli artisti e con il pubblico, e poi a parte facevamo dei laboratori proprio di social performing art, e quindi lavorando con popolazioni molto diverse, dai bambini agli anziani, a semplici persone che non avevano, come dire, nessun tipo di istruzione pregressa al mondo della scena o dell'arte contemporanea. E poi abbiamo deciso invece qui a Bologna di mettere assieme queste due cose e dire forse quel format, quel modo lì di incontrare l'artista, di fare le domande davanti al pubblico e poi insomma facilitare il dialogo, non basta, perché forse le persone poi alla fine tornano a casa con questo sentimento di distacco, di non appartenenza. Sì, l'hai detto benissimo prima, che in realtà tutte queste cose, che ne sono nate tantissime, anche proprio avendo come epicentro Bologna la sua università, e adesso i nomi particolari non vale neanche la pena di tirarli fuori, ma bene o male si crea sempre questo scollamento tra la platea e il palco. A maggior ragione in un festival come quello di Peraspera, che si riversa nel mondo, abbassare questa soglia e creare una sorta di commistione orizzontale, ben venga. Quindi evviva Micromondi, e peccato che oggi non sono lì, perché io sono l'unica che voi avete l'ubiquità. Domani. Domani verrò sicuramente a farmi accordare con tutta la gioia del mondo. Esatto. E in realtà è la parola d'ordine dell'edizione di quest'anno di Peraspera, imbattersi. Quindi l'idea è proprio quella di imbattersi, di capitare, di inciampare in qualcosa di inaspettato. Se uno sa dove mette i piedi e osserva tutto in modo vigile e controllato, nulla può capitare di accidentale. Invece imbattersi significa proprio inciampare in qualcosa che non era previsto. We'll be right back. Eccoci di nuovo in diretta, più o meno pseudo diretta coxica, per la 328esima puntata del nostro programma. E che cosa ci riserva la programmazione del festival per questa 13esima edizione? Oltre Micromondi, che l'abbiamo appena sentito. Beh, ci riserva tutta una serie di interventi che sono di appartenenti a vari linguaggi, come è nella tradizione di Peraspora. Micromondi è il nostro progetto laboratoriale, avremo un altro progetto improntato sulla parola, anch'esso performativo, che chiuderà il festival il 27 di settembre, un dialogo che si chiama Smagliature, condotto dall'autore e dal critico Simone Azzoni, che incontrerà il fotografo di scena Enrico Fedrigoli e i direttori artistici di Ateliersi, Fiorenzo Menni e Andrea Mocchi Sismondi. Perché da noi anche la parola è performativa. Avremo poi tutta una serie di performance, ad esempio il 22 di settembre con Macellerie Pasolini faremo una performance itinerante tra il Mercato Albani e le Corti Acer della Bolognina. E, mentre il 25 di settembre saremo a Casalecchio di Reno su un tetto perché una performer di base a Torino, Martina Nova, produrrà questa ricerca in cui sul tetto dello spazio eco di Casalecchio con grandissimi palloni gonfiati ad elio sulla testa, creerà forme di equilibrio sempre instabili tra cielo e terra. È quello installativo della fotografia, perché quest'anno Peraspora ha affidato a un fotografo, Gianluca Rizzello, un'indagine tra persone e territorio di Monte San Pietro, e questo ha dato vita a un'installazione fotografica, We Are Here, il paesaggio attorno, che ha reso e sta rendendo in questi giorni tutto il territorio di Monte San Pietro un museo diffuso all'aria aperta, perché gli scatti di Gianluca sono installati in grandi bacheche a vetro nelle 5 frazioni che compongono il territorio del comune. Che è quello della danza. Il 20 abbiamo aperto il cuore performativo di Peraspora con un'anteprima di Fabrizio Favale, Le Supplici, nel parco di Villa Ghigi. Il 23 ospiteremo all'Oratorio San Filippo Neri un'altra anteprima di Lara Russo. Mentre il 24 settembre, col linguaggio del video danza, questa volta avremo la compagnia bolognese DNA con l'installazione The Transmission of Life alla Casa della Cultura Italo Calvino Calderaro di Reno. Meraviglioso, allora direi intanto lasciamoci immergere nelle atmosfere sonore di Vincenzo Scorza e godiamoci poi le meravigliose pubblicità delle 7:30 e quando torniamo riprendiamo il discorso approfondendo proprio il tema musicale con il diretto autore. Bene. A tra poco. A tra poco. Ciao. Ciao. ascoltando Coxo Spaziali. Hello from outer space. Performance, ricerca, teatro. Coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale. Ed eccoci tornati per la 328esima puntata del Coxo, interamente, unicamente dedicata a Per Aspera 13, alla presenza virtuale, non virtuale, coxica, di Ennio Ruffolo e Maria Donnoli. Che però ci introducono un ulteriore ospite, che è la colonna portante della sezione musica di quest'anno. Dico bene? Benissimo. Diteci di più. Il 26 di settembre, in sinergia con l'opening dello Spazio Sì, quest'anno Per Aspera ha scelto, diciamo, di farsi rappresentare musicalmente da Vincenzo Scorza, che è un artista che da sempre caratterizza il festival nelle sue espressioni. E del quale stiamo ascoltando le sonorità, perché gentilmente ci ha trasmesso alcuni file prodotti per alcune delle precedenti edizioni. Fortunatamente c'era. E quest'anno presenterà il suo nuovo lavoro, che è una performance audio-video che si intitola Isola, live set per suoni inesatti e fotoni erranti. Non male, sempre molto visivo e performativo nel titolo. Ricordo anche alcune installazioni fatte in edizioni precedenti che comunque riuscivano a coinvolgere sinesteticamente le persone. E quindi parliamo direttamente con lui adesso, ci facciamo dire. Allora, appena arrivato ti dirà tutto con serenità dei suoi lavori. Eccomi, ciao! Ciao Vincenzo, benvenuto al Coxo! Grazie, bentrovati! E quindi quest'anno da dove è partita la tua proposta? Allora, questa proposta in realtà è partita già l'anno scorso, nel senso che il lavoro che ha avuto una registrazione lunghissima per i motivi che già sappiamo. Ovviamente il festival sarebbe dovuto, o meglio il mio live sarebbe dovuto accadere già qualche mese fa, però i tempi sono allungati, per cui la gestazione del lavoro è stata veramente lunga e dilatata. E ha avuto principio su una riflessione riguardo all'isolamento che viviamo nella società contemporanea, seppur circondati da socialità. Cioè siamo nello stesso tempo, viviamo un ossimoro, no? Siamo inondati di socialità sia reale che virtuale, con la maggioranza di quella virtuale, però siamo sempre estremamente soli. Diciamo che questo per quanto riguarda l'aspetto poetico, la suggestione iniziale. Ovviamente i miei lavori sono lavori improvvisativi, generalmente non hanno una voce, tranne alcuni lavori che ho fatto in passato, per cui tutto questo viene trasformato in qualche modo in sonorità e in questo caso anche in un dispositivo di generazione di visual. Quindi questo per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, generale del lavoro. Tu però, Vincenzo, a mio sentire, ma poi mi dirai tu se ho sbagliato, ma nasci squisitamente nel mondo dell'audio, e se così è ti volevo chiedere come va ad inserirsi, ad innestarsi nella tua sensibilità lo strumento, il linguaggio video. Allora, dici bene, io sono effettivamente un musicista, mi occupo principalmente di audio, però oggi il mezzo tecnologico diciamo rende facile sperimentare con le tecnologie, e molti degli strumenti tecnologici che utilizzo nell'audio permettono di lavorare anche in materiali video, per cui il passo è stato corto, già in sperimentazione generazione che è arrivata qualche anno fa, non mi reputo un artista visivo, però i video nei miei lavori non sono neanche un supporto all'audio, infatti è a tutti gli effetti una performance audio-video. A generare il video è lo stesso strumento che genera l'audio, quindi davvero il passo è stato cortissimo. Ma per entrare un po' più nello specifico e per riprendere poi quello che è il tema principale del festival, in cosa si imbatterà il pubblico venendo ad Isola? Allora, il pubblico si imbatterà in una improvvisazione audio-video, laddove io stesso mi imbatterò nelle sorprese del dispositivo che utilizzerò, perché essendo un'improvvisazione, è un'improvvisazione sia per il pubblico che per me che la porto avanti. Infatti là il discorso dei suoni inesatti e dei fotoni erranti riguarda esattamente questo principio, il principio per il quale la macchina, il dispositivo audio video va avanti da sé e il mio compito in quel momento è domarlo, dirottarlo e provare a piegarlo a una volontà. Quindi sono lavori in cui bisogna lasciarsi prendere per mano in qualche modo. Lasciarsi prendere per mano da un sacco di elementi, tra l'altro questa cosa della linea digitale che procede in maniera, diciamo, autonoma, preordinata, precisa, senza appunto imbattersi in discrasie o in incidenti, che viene moderata e dialogata con il fare umano, che sappiamo ha natura completamente diversa. E data magari anche la specificità di questo tema, che ha una pregnanza sempre maggiore di questi tempi, ai noi o per fortuna, vedremo, mi piacerebbe un sacco che prossimamente potessimo sentirci per capire un pochino anche con te quali sono stati gli esiti di questo lavoro dal punto di vista di una conoscenza un pochino più approfondita e radicata appunto di questi temi. Chi va? Mi ci ritorna il cozzo? Sarebbe molto bello, sì, sarebbe molto bello. E allora io direi che per il momento ci salutiamo e ti auguriamo tanta coxa per la performance che sarà tra qualche giorno, poi per le date vi rimandiamo ai link che saranno tutti pubblicati da domani su www.coxospaziale.blogspot.com e ci lasciamo ascoltando qualche nota da alcuni dei temi che userai per la performance? Assolutamente sì. le sonorità della sezione musica di Peraspera, tredicesima lezione per il 2020, per avviarci all'ultima sezione del programma, purtroppo, e che però è arricchita dall'ultima colonna portante del festival, e si parla della danza, che ha cominciato appunto con un'anteprima di Fabrizio Favale, e però continua con altri contributi. Chi di voi certo. Ci racconta un po' chi sono queste altre artisti e cosa portano? Allora, Lara Russo, una nota artista bolognese, danzatrice molto brava, che presenterà il suo lavoro che si chiama Wood all'interno dell'oratorio di San Filippo Neri nel centro di Bologna. Un posto molto bello, molto giusto per il lavoro di Lara. E adesso io c'ho la sorpresa, perché sono ubiqua, coxica, ho i superpoteri, perciò ti faccio sentire, ascoltiamo insieme il contributo che Lara ha prodotto per questa puntata. Vai. Tra parentesi, Desire è il titolo del mio ultimo lavoro, che presenterò per Aspera il 23, mercoledì alle 20:30 all'oratorio San Filippo Neri. Sono molto grata e felice di questa occasione, perché è uno dei miei posti preferiti a Bologna. Io sono Lara Russo, coreografa che vive e lavora qua, e da un po' di anni la mia ricerca si è spostata sull'interazione del corpo con la materia. Con diversi tipi di materiali ho sperimentato con l'alluminio, il rame, il cartone, la ceramica, e in quest'ultimo lavoro ho voluto portare in scena dei bellissimi legni portati dal mare, che ho trovato sulle rive dell'Adriatico, e che già di per sé sono un'installazione, una scultura, e quindi semplicemente la mia curiosità era di capire come il corpo si poteva relazionare con questi elementi naturali, che sono una materia viva, perché contengono una storia, che è quella del mare, del vento, della sabbia, della luce, e sono stati vivi, sono stati degli alberi, quindi hanno anche una stratificazione di storie, no? Contengono già di per sé delle energie. Sembra un po' esoterico come discorso, però in realtà quello che è proprio quello che mi interessa, cioè cosa mi trasmette la materia e come il corpo restituisce la materia stessa, come agisce la materia sulla danza e come la danza riflette poi nel dialogo con questa materia. C'è anche un alto grado di imprevedibilità e di rischio a lavorare con i materiali, perché cadono, si rompono, però hanno anche per esempio tutto un aspetto sonoro che mi interessa molto. Infatti per questa creazione ho collaborato con Filippo Bonelli, il sound designer, che ha registrato i suoni e ha composto ad hoc una composizione che comunque poi rifarà live dal vivo, perché appunto la coreografia comunque contiene una buona parte di improvvisazione. In scena ci sono io e Pieradolfo Ciulli, io in via del tutto eccezionale, perché quasi mai danzo nei miei lavori, infatti è anche questo un esperimento, vedremo. Ben accette critiche e feedbacks, perché spero che il lavoro continuerà a crescere e evolversi dopo questa data. Nel frattempo ringrazio tantissimo Ennio Ruffolo, Maria Donnelly e Vince Corza, che insomma sempre mi supportano e sopportano soprattutto. E niente, venite numerosi, per Aspera è un bellissimo festival e vale la pena. Thank you. dopo la voce di Lara Russo, eccoci con un'altra voce. Ce la introduci tu, Maria? Sì, vi introduco un lavoro di un'altra compagnia di danza bolognese, perché quest'anno in maniera molto forte per essere incentrata sugli artisti del territorio. Lo è sempre stata per la sua filosofia, ma quest'anno per tutto quello che è accaduto abbiamo ritenuto di doverci focalizzare ulteriormente in maniera ancora più specifica. Quindi l'80% degli artisti risiedono e lavorano a Bologna. E è di Bologna anche la compagnia DNA che ha prodotto per Peraspera un videodanza comunitario che verrà installato il 24 di settembre alla Casa della Cultura Italo Calvino di Caldera di Reno e resterà lì visibile fino all'8 di ottobre. Ascoltiamo la descrizione direttamente dalla voce di Elisa Pagani. Anche lei è presso, eh? Salve, sono Lisa Pagani, coreografa e direttrice artistica di DNA, compagnia di danza contemporanea basata a Bologna che si occupa da tempo di produzione artistica e di progetti di danza di comunità. Durante il lockdown abbiamo immaginato il progetto The Tree of Life. Si tratta di un triplice evento laboratoriale e performativo che si sviluppa attorno al tema dell'invecchiamento. The Transmission of Life è uno di questi laboratori con esito del progetto stesso e si presta, per le sue caratteristiche di rapporto uno a uno tra coreografo e partecipante, ad essere realizzato anche online. Ed è qui che arriva il Festival Peraspera, che ha accolto con la proverbiale generosità il progetto e abbiamo deciso proprio di metterlo in piedi nella sua versione online con esito video. Il laboratorio consiste nel raccogliere un gruppo di partecipanti di ogni età ed esperienza nel campo della danza, quindi anche neofiti, ed accompagnarli nella creazione di un solo o di un duetto in caso di congiunti, che sia da ognuno di loro poi scelto, creato e realizzato. Il solo o il duetto che viene poi creato viene assegnato ad un altro partecipante. E l'altro partecipante si impegnerà a farlo proprio, riattraversarlo e riadattarlo nella propria fisicità, preparazione artistica ed età. Il risultato sarà quindi una coreografia che verrà interpretata dal suo creatore e da un altro corpo, per esplorare quindi i punti di tangenza o contatto oppure di estrema lontananza tra due esperienze che si attraversano e che comunque attraversano lo stesso atto gestuale. In particolare, il tema delle creazioni, in questo caso specifico, ruota attorno all'amore, al suo legarsi al passare della vita stessa, al consolidarsi nel tempo e al suo modificarsi nel tempo, fortificandosi o magari lacerandosi. Nell'ambito del Festival Peraspera abbiamo incontrato un gruppo davvero eterogeneo e generoso, disponibile, con cui abbiamo realizzato i laboratori online, come dicevamo uno a uno, e poi abbiamo effettuato le riprese, invece live, chiaramente, presso la Casa della Cultura Italo Calvino di Calderara di Reno. La stessa Casa della Cultura ospiterà anche la videoinstallazione che stiamo realizzando con il girato e che inaugurerà il 24 settembre alle 18.30 assieme all'intervento di Renzo Francabandera e Michaela Mastroianni per questo progetto di educazione del pubblico e formazione del pubblico che si chiama Micromondi, incontri con i linguaggi dell'arte. Nella speranza che questo possa essere un evento artistico che possa invitare la maggior parte delle persone a ritrovare un contatto con il proprio corpo e ad avere la voglia di avvicinarsi al movimento, la danza nel nostro caso, per esplorare un po' di più se stessi. Vi aspettiamo! Thank you. ringrazio tantissimo e con grande, grande rimpianto e tristezza nel cuore devo annunciare che purtroppo anche la 328esima puntata del Coxo è giunta al termine e devo salutarvi. Ma io ti saluto con questo bellissimo drink che sto bevendo, buonissimo. Eh sì, perché sono le 8 e voi siete alle serre dei Giardini Margherita, dove sicuramente performing arts, cultura e aperitivi non mancano. Neanche, guarda. Possiamo dare un'ultima informazione? Ci tenevamo a dire che gli interventi di Peraspera sono tutti gratuiti, è richiesta però la prenotazione nel rispetto delle normative anti-Covid, quindi ci si può prenotare a info@perasperafestival.org oppure mandare un messaggio via WhatsApp al 349-5824-266, quindi invitiamo davvero tutti a venire a trovarci. E tutti questi link e queste informazioni le troveremo pubblicate sul blog di Coxo Spaziale all'indirizzo www.coxospaziale.blogspot.com, dove troverete anche le immagini dei fuori onda di queste spettacolari registrazioni ubique. Ennio, Maria, vi ringrazio tantissimo, ritornare al Coxo Spaziale a voi è stato un onore, ci vediamo da adesso. Dai. Un bacione, grazie mille. Un bacio tesoro. A presto. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Fedra, come dici che sono andata? Abbastanza bene, anche se devo dire che hai un po' l'accento veneto, cioè più del solito, insomma. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Through the dust that rent your womb, you stumbled through. It was only I, it seemed such a short while. We had no time to cry. I sit and wonder why. We had so many things we had to get through. We tried the cinema within half an hour. We had to go find some places more, you know. We tried a drinking bar, it gets so very hot. And when the cab rider hears you too loud, we go fuck in the bathroom. We can't afford the time to sit and cry or to wonder why. We got so many things we have to get through. Does it ever end it with you? You stumble through. We had so many things, darling, said we had to get through. Cry or to wonder why. We got so many things we have to get through. We haven't got the time for telling lies or to even try. There's only days in between, they're just tomorrow. out, it seems such a short while. And those pillows are the feathers that hold all our dreams, displayed at the scene. Now they just